Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Oggi, come avrete intuito sentendo la mia voce e sentendo la sigla, non ci sarà Sebastiano Barisoni, ci sarò io sia oggi che domani che dopodomani. Sebastiano Barisoni invece tornerà nella giornata di lunedì. Che temi affronteremo oggi? Sono tutti temi che, se vogliamo, sono parzialmente collegati alla crisi politica di queste ore, a quella seguita all'andamento del referendum, a questa valanga di noi, alle conseguenti dimissioni del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che in questi minuti tra l'altro sta parlando tramite la sua e-news prima della direzione del Partito Democratico, nella quale farà sostanzialmente un discorso. Non ci sarà dibattito e poi salirà al Colle per le sue dimissioni. Dice Renzi, tra le altre cose: sono pronto a cedere il campanello al mio successore, il campanello simbolo appunto del passaggio di consegne tra un Presidente del Consiglio e l'altro. Ricorderete poi al centro di una scena, quella nel passaggio di consegne tra Enrico Letta e Matteo Renzi, che tutti ricordiamo per l'espressione triste e rammaricata che aveva Letta in quella occasione. Queste le parole di Renzi. Non c'è molto di più dal punto di vista della sostanza da dire sulla crisi politica, eccetto che tutto questo inevitabilmente ha degli effetti economici o attesi o che non si sono realizzati. Iniziamo da quelli attesi. Il tema qua è evidentemente quello che succederà al Monte dei Paschi e quello che riguarda un po' tutta la partita bancaria. In questo momento il Monte dei Paschi guadagna il 15,7%, è andato di nuovo in asta di volatilità pochi istanti fa, sospesa quando guadagnava il 12,5%, e adesso appunto guadagna il 15,8% e si porta dietro praticamente tutto il settore bancario. Considerate che Popolare Emilia Romagna guadagna l'11,1%. Unicredit l'8,19, Popolare Milano il 6,3, Banco Popolare il 6,18, Ubibanca il 4,2, Mediobanca il 4,03, che titoli che naturalmente trascinano al rialzo anche la borsa milanese, più 1,5% per il FTSE MIB, più 1,5% anche per il FTSE All-Share, in una giornata complessivamente positiva per l'Europa. Francoforte guadagna l'1,8, Parigi l'1,13, Londra l'1,5%. Come si diceva, appunto, la partita di Monte dei Paschi è aperta, continua a susseguirsi indiscrezioni di qualsiasi tipo, a partire da quella pubblicata oggi dalla Stampa, secondo la quale il governo italiano sarebbe stato pronto a chiedere all'Europa un prestito di 15 miliardi di euro per salvare il Monte dei Paschi al Fondo Salva Stati, l'ISM, una notizia smentita tanto dal Tesoro quanto dall'ISM, ma certamente il mercato sta commettendo e nitidamente su un intervento dello Stato di qualche tipo. Di questo torneremo a parlare e lo faremo con Marco Ferrando del Sole 24 Ore, che ci aiuterà anche un po' a chiarire che cosa può succedere in ore nelle quali tra l'altro è riunito il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena. E magari cercheremo anche di fare un punto un po' su tutto il resto, perché lo ricordiamo, è rimasta un po' in sospeso, sospeso un po' come una spada di Damocle, un po' tutta la questione delle sofferenze, ossia dei crediti non più esigibili da parte delle banche. Parleremo di questo e ci occuperemo, come si diceva, conseguenze attese e conseguenze in qualche misura inattese. No, ci si attendeva che il mercato avrebbe venduto Italia sostanzialmente all'indomani del referendum con una vittoria del no. Ebbene, questo non è successo e anzi le performance che sta mettendo a segno in questa settimana la borsa milanese sono positive, lo spread si è ridotto, l'andamento dei titoli di Stato è buono in questo momento. Certo, c'è il cappello della Banca Centrale Europea, l'ombrello della Banca Centrale Europea, ma non basta solo questo a spiegarlo, e anche su questo cercheremo di fare un'analisi. Tra l'altro ne parla oggi il Sole 24 Ore in edicola. C'è Il punto è che nell'ultimo mese prima del referendum, dando per scontata la vittoria per il no, molti hedge fund e molti investitori avrebbero scommesso sul no e quindi avrebbero scommesso al ribasso sull'Italia, tant'è vero che gli indici italiani sono andati molto male soprattutto nell'ultimo mese e poi adesso stanno ricomprando qualcosa. Però insomma, questa instabilità politica non ha gli effetti sul mercato che molti si attendevano. E poi ci sono le politiche del governo valutate in termini di numeri. Abbiamo parlato la settimana scorsa i dati dell'Istat su occupazione e disoccupazione, oggi ne sono stati diffusi altri, sono i dati trimestrali. Che cosa indicano questi dati trimestrali? Qualcosa che avevamo già visto e che, se vogliamo, possiamo anche collegare, e vedremo di capire quanto possiamo farlo, all'andamento del referendum, soprattutto alla scomposizione del voto per classi di età. Come avete visto e come vi abbiamo raccontato anche qua nei nostri GR e non solo in quelli, se si fa una scomposizione per classi di età si è visto che la stragrande maggioranza dei giovani ha votato per il no. A votare per il sì sono state delle classi di età più avanzate. Ebbene, i dati di oggi dell'Istat ci dicono che c'è stato un boom per quanto riguarda le assunzioni, i contratti per gli over 50, e forse anche questo è un segnale, perché interpretare, certo ci saranno molte persone che hanno votato in questo referendum guardando alla riforma costituzionale e punto, ma moltissime altre, come sappiamo e come abbiamo raccontato, hanno votato sostanzialmente contro questo governo, e quindi vedremo di capire se c'è un legame tra queste due cose. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, le notizie in breve di oggi. E per rispondere subito ad un ascoltatore, così iniziamo allegramente in polemica questo ponte, non è vero che non leggiamo gli sms e i messaggi su WhatsApp, leggiamo quelli che riteniamo pertinenti e interessanti, ok? Quindi così finiamola con questa storia, non è che non li leggiamo, se non li riteniamo pertinenti e interessanti non li leggiamo, è una scelta giornalistica, prendetela come vi pare, però così è. Per esempio ad Andrea, che ci scrive via WhatsApp: domani Draghi estende il quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli, il 14 la Yellen, la presidente della Federal Reserve, alza i tassi, e poi rally di Natale, non sappiamo se ci sarà rally di Natale. Di certo oggi affronteremo anche l'argomento dei Draghi, perché è un elemento importante in tutto questo, e ci sono attese del mercato perché domani Draghi da questo punto di vista faccia qualcosa. L'oro è in rialzo, oggi iniziamo come sempre dalle materie prime, più 0,8% a $1,177 l'oncia. Petrolio in calo invece, comunque siamo sempre sopra i $50 al barile. WTI con consegna a gennaio meno 1,63% a $50,1 al barile. Il Brent in questo caso con consegna a febbraio meno 1,22% a $53,2 al barile. Notizie da Donald Trump, il quale oggi tra l'altro è stato nominato persona dell'anno dal Time, da Time Magazine, e che ieri ha potuto festeggiare l'undicesima giornata di record del Dow Jones dal momento della sua elezione. Però sta suscitando un po' di polemiche, perché come sapete uno dei suoi cavalli di battaglia è la lotta agli stranieri che rubano il lavoro agli americani. Ebbene, si è saputo che assumerà dei lavoratori non americani nel suo resort Mar-a-Lago di Palm Beach in Florida. Secondo i media americani, nel mese di ottobre il presidente eletto ha ottenuto il via libera dal Dipartimento del Lavoro per assumere 64 dipendenti stranieri, che vengono pagati meno di quelli americani, con il programma di visti H2B, dedicato agli impieghi temporanei. Lo aveva già fatto l'anno scorso con 69 persone. Ovviamente notizia che ha scatenato critiche. Sempre sul fronte dell'economia internazionale abbiamo le dichiarazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che sui crolli di queste ore della lira turca dice: stanno cercando di distruggere la nostra economia attraverso la speculazione del cambio straniero. Quando la Turchia compie passi seri in Siria e Iraq, prende importanti decisioni sull'Europa e compie una transizione verso il sistema presidenziale, le armi economiche vengono dirette contro di noi. Erdogan è tornato a chiedere ai suoi cittadini di cambiare le valute straniere sotto i materassi in lire o in oro. Ha assicurato che il governo sta prendendo le misure necessarie per superare i problemi nell'economia. Beh, insomma, visto il tentato golpe, vista la pazzesca ondata repressiva, insomma, è chiaro che è un messaggio a uso interno questo di Erdogan, quindi è un po' di propaganda, però insomma non è che si può aspettare che gli investitori stranieri se ne restino là tranquilli, e quindi la lira turca vada particolarmente bene. Comunque abbiamo i dati anche della Germania oggi, la produzione industriale che ha messo a segno a ottobre un rialzo dello 0,3% sotto le stime degli analisti, almeno quelli consultati da Bloomberg, che prevedono quindi un rallentamento nel quarto trimestre dell'anno per l'economia del paese. In settembre si era registrato un calo dell'1,6%, a spingere la produzione sono le costruzioni, più 1,7%, mentre la manifattura è salita del solo 0,1%. Dall'Europa, permettere ai giovani europei tra i 18 e i 30 anni di inserirsi in un progetto di volontariato o tirocinio, un apprendistato o un lavoro per un periodo da 2 a 12 mesi in un altro paese europeo. È con questo obiettivo che la Commissione europea vara il Corpo Europeo di Solidarietà, preannunciato dal presidente Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a settembre. I partecipanti potranno impegnarsi in attività che vanno dall'assistenza sanitaria all'accoglienza e all'integrazione di migranti e rifugiati. A questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24, a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Anche l'Europa avrà il suo esercito della salvezza e sarà composto dai giovani della generazione Erasmus, che avranno a disposizione un nuovo strumento di integrazione e di costruzione della nuova cittadinanza europea, con l'occhio alla solidarietà. La Commissione europea ha presentato oggi il progetto del Corpo europeo di solidarietà, che sarà composto da volontari di tutti i paesi della UE che potranno essere occupati in stage che vanno dai 2 ai 12 mesi. Il nuovo organismo, creato proprio sulla falsariga dell'esperienza americana, sarà attivo nei campi dell'istruzione, della sanità, dei disastri naturali, della protezione ambientale, dell'integrazione e dell'assistenza degli immigrati e dei rifugiati. L'obiettivo è arrivare a 100.000 partecipanti entro il 2020 e per partecipare occorrerà avere tra i 18 e i 30 anni. Il Corpo Europeo di Solidarietà, ha spiegato il presidente Juncker, creerà opportunità per i giovani che hanno voglia di dare un contributo significativo alla società e mostrare solidarietà. Ciò è per me l'essenza stessa dell'Unione Europea, ciò che ci lega non sono i trattati o gli interessi economici o industriali, ma i nostri valori. Coloro che lavorano da volontari vivono i valori europei tutti i giorni. Non resta dunque che sperare che sia davvero un modo perché l'Europa ritrovi il senso profondo del proprio esistere. In fin dei conti è stata sempre una grande utopia, non certo un libro mastro della partita doppia da ragionieri. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Arriva in Gran Bretagna una multa record per il gigante farmaceutico americano Pfizer, punita per aver gonfiato a dismisura il prezzo di un farmaco antiepilessia fornito al sistema sanitario nazionale del Regno. In sostanza, il sistema nazionale, sanitario nazionale britannico ha pagato 2 milioni di euro per alcune forniture di questo farmaco nel 2012 e 50 milioni di sterline nel 2013. Beh, diciamo l'incremento è stato notevole. La multa è stata data anche al distributore britannico Flynn Pharma di 5,2 milioni di euro. La multa per Pfizer è di 84 milioni di sterline, scusate. E a proposito di multa, ci sono i 485 milioni dell'antitrust europeo a Credit Agricole, HSBC e JP Morgan Chase per aver fatto cartello sugli interessi di prodotti derivati in euro. Le banche, dice l'antitrust europeo, si sono scambiate informazioni sensibili e si sono accordate su alcuni elementi di prezzo violando le norme europee sulla concorrenza. Altre banche come Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale avevano risolto con un accordo con la Commissione europea. A proposito di banche, Credit Suisse ha annunciato nuovi tagli ai costi per 1 miliardo di franchi e una riduzione degli obiettivi a causa delle avverse condizioni di mercato. E dice la realizzazione degli obiettivi di utile del piano, secondo la banca, dovrà fare maggiore affidamento sulla riduzione dei costi piuttosto che sulla crescita dei ricavi. Il fronte bancario, abbiamo accennato qualcosa poco fa, la vicenda è sempre quella di Monte dei Paschi, e lo dico all'ascoltatore che ci scrive: non c'è niente da festeggiare nel fatto che oggi Monte dei Paschi vada particolarmente bene, visto quanto ha sofferto negli ultimi anni. Per carità, non è che stiamo dicendo che si festeggia, è un segnale che sta dando il mercato in queste ore, in quanto tale lo registriamo. Monte dei Paschi, si è parlato di una possibile richiesta da parte del governo di un intervento del Fondo Salva Stati, notizia smentita tanto dal governo quanto dallo stesso Fondo Salva Stati, dall'ISM, e intanto si ipotizza l'intervento dello Stato, ma su questo arriveremo più avanti e vedremo anche quali forme potrebbe prendere, perché con la direttiva del bail-in e del bail-in in vigore non è esattamente semplice. Abbiamo una notizia su Zonin, l'ex presidente della Popolare di Vicenza. Che cosa ha fatto? Ha citato in tribunale la banca per accertare le responsabilità. Quali? Per l'accertamento della correttezza della sua attività nell'istituto di credito dal 96 al 2015. Di fatto una ritorsione di Zonin contro l'azione di responsabilità decisa dal Consiglio d'amministrazione per gravi irregolarità che avrebbero causato danni per diverse centinaia di milioni di euro. Sostiene Zonin che per 17 anni consecutivi ha distribuito ai soci consistenti utili conseguenti alla gestione profittevole della banca. Fatto sta che, uscito lui, i consigli di amministrazione che si sono succeduti sono stati costretti a ridurre il valore delle azioni da 48 euro prima a 6,30 e poi a 0,10 euro, come anche gli azionisti della Popolare Vicentina che ci ascoltano sanno benissimo. Infine la manovra, il Senato ha dato l'ok alla legge di bilancio, 173 i sì e 108 i no, Renzi ha annunciato le dimissioni e lo sapete. Oggi c'è stata anche una riunione tra Confindustria e sindacati per un progetto che si chiama Patto per la Fabbrica, un intervento organico su innovazione, formazione, conoscenza, giovani e mezzogiorno. Confindustria e sindacati hanno concordato sulla necessità di sostenere un'idea politica di economia e industriale nazionale che dia forza e competitività alle imprese, impulso alla crescita occupazionale, quindi un tavolo che si è avviato, un tavolo di confronto, ce ne sarà un altro a metà gennaio, Il presidente Boccia, presidente Confindustria Boccia, dice al microfono di Chiara Piselli, sottolinea il momento delicato politicamente, quindi quanto siano anche importanti queste cose. Sentiamo. A maggior ragione oggi diventa attuale questa idea che abbiamo lanciato ad ottobre del patto per la fabbrica, in un momento delicato che il Paese vive dal punto di vista economico, dal punto di vista politico-istituzionale, le parti sociali determinano una volontà di coesione, di messaggio, anche di capacità di proposta all'attenzione del Paese per costruire un'idea di crescita economica quale precondizione per eliminare diseguaglianze e povertà. Un grande atto di corresponsabilità. Adesso occorre lavorare sui contenuti e sui fatti. Nella seconda metà di gennaio faremo un secondo incontro dopo questo e cominceremo a valutare contenuti e proposte e idee comuni. Ancora Boccia, Vincenzo Boccia, nello specifico su quello che riguarda questo patto per la fabbrica, sentiamo. Abbiamo costruito un percorso per riempire di contenuti quello che abbiamo definito il patto per la fabbrica, che significa riportare all'attenzione del Paese la questione industriale, un Paese che è il secondo Paese industriale d'Europa, lo sanno solo il 30% degli italiani, e costruire un'idea di politica economica per un'industria competitiva e realizzare una proposta per attivare quello che è il circolo virtuoso dell'economia, un'industria competitiva e quindi più investimenti, più occupazione, più salari per un Paese che reagisce. Mi sembra, come dire, che il perimetro è chiaro, adesso cominceremo a confrontarci su tutti questi argomenti e le relazioni industriali saranno una conseguenza della condivisione, ove la troveremo, e noi chiaramente auspichiamo che ciò accade, sull'idea di industria del futuro che vogliamo realizzare. Se ci capiamo su questo, evidentemente le relazioni industriali che ne deriveranno saranno una conseguenza. Dice, è l'inizio di un percorso, lo dice Susanna Camusso, segretaria della CGIL. Abbiamo fatto una discussione, credo, importante su che cosa vuol dire nella fase della trasformazione immaginare un patto per la fabbrica, sia in termini di innovazione, sia in termini di formazione, sia di costruzione di una cultura. Abbiamo deciso di approfondirlo insieme a altri temi che avevamo in agenda riferiti alla bilateralità, al welfare, ai perimetri contrattuali. Abbiamo colto l'occasione per dire che, non avendo finora avuto risposte sul protocollo, sull'avviso comune che abbiamo fatto con Confindustria a settembre, tutto il tema della gestione delle crisi aziendali e degli strumenti è ancora tutto da affrontare. Abbiamo, come dire, condiviso la necessità di lavorare a quello che il Presidente di Confindustria ha chiamato un patto per la fabbrica, se ha quell'ambizione di essere il disegno della politica economica e industriale necessaria per l'innovazione del Paese, non è che lo affronti in due minuti, riguarda molte, molte cose, riguarda chi ha il lavoro oggi, riguarda le prospettive, riguarda come si governa una cabina di regia che è Industria 4.0, quindi sono molti i temi da affrontare e anche l'idea di avere proposte innovative da questo punto di vista. Il fatto che abbiamo un appuntamento alla seconda metà di gennaio non vuol dire che nel frattempo non si continui a lavorare per costruire. Adesso ci fermiamo, ci prendiamo una pausa, c'è il meteo, immagino che chi è in partenza oggi sia particolarmente interessato, poi ci ritroviamo e parliamo di mercato del lavoro. Ci sono questi dati, come si diceva in apertura, interessanti, perché da una parte c'è un elemento positivo, no? Che crollano gli scoraggiati, meno 198.000 rispetto al terzo trimestre del 2015, dall'altra parte abbiamo questo segnale che l'occupazione, l'avevamo già registrato in passato, ma è una conferma, cresce soprattutto per gli over 50, più 323.000 nel terzo trimestre 2016. Pausa. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Qualcuno ci chiede, visto che abbiamo annunciato che avremmo parlato adesso di lavoro e adesso ne parleremo, mi piacerebbe conoscere la qualità di questi posti di lavoro che si sono creati. Da impiegato a lavapiatti, ironizza qualche ascoltatore. Non lo so, difficile fare stime qualitative da questo punto di vista. Allora, i dati di oggi, quali sono? Sono quelli dell'andamento del terzo trimestre, dopo quelli relativi ad ottobre, che erano usciti il primo dicembre, cioè quelli dei quali abbiamo parlato la settimana scorsa, erano solamente quelli del mese di ottobre, adesso parliamo del terzo trimestre. Che indicano un'occupazione cresciuta di 239.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2015, sulla base dei dati grezzi, ma un aumento che si è concentrato sugli ultra cinquantenni. E abbiamo anche un dato positivo, il crollo degli scoraggiati, meno 198.000 sul terzo trimestre del 2015. Buonasera al professor Enrico Giovannini, ordinario di statistica economica all'Università di Roma Tor Vergata, già presidente dell'Istat e già ministro del lavoro. Buonasera. Buonasera. Buonasera professore. Allora, ci dà una lettura di questi dati. Quello che ci interessa al momento molto è il punto sugli ultra cinquantenni. Forse impropriamente, e qualche ascoltatore ci dice che è improprio, abbiamo collegato questo anche all'esito del referendum. Cioè, visto che abbiamo visto questa suddivisione per classi di età molto netta in questo voto, per cui una maggioranza dei giovani, forse quelli che sono rimasti un po' più esclusi, no? dal mercato del lavoro, ha votato per il no. Altri ascoltatori ci dicono: ma no, i giovani hanno votato tutti guardando il merito della riforma. Questo non lo possiamo sapere. Certo, qualche segnale di sofferenza nei confronti di questo governo è stato espresso con questo voto. Quindi vorrei capire una sua lettura: come mai l'occupazione si è concentrata sugli ultra cinquantenni? Ma intanto, se posso permettermi, lei nei dati che ha citato ha fatto sempre il confronto rispetto all'anno scorso. Prima di arrivare all'analisi per età, dobbiamo però dirci che fondamentalmente negli ultimi due trimestri il mercato del lavoro è sostanzialmente fermo, cioè l'occupazione, al di là delle fluttuazioni mensili rispetto al mese precedente, l'occupazione è stabile da molti mesi, e anche il tasso di disoccupazione è stabile da molto tempo, quasi un anno, al di là delle oscillazioni mensili. E questo è abbastanza coerente con una crescita economica che è stata abbastanza consistente nei trimestri a cavallo tra il 2015 e il 2016 e poi ha rallentato nettamente. Un altro segnale da cogliere nel terzo trimestre e che hanno ricominciato a crescere i lavori a termine più che i lavori a tempo indeterminato, e questo è un altro segnale di incertezza. Quindi, dopo l'aumento dei contratti cosiddetti a tutele crescenti, grazie anche agli incentivi, le imprese stanno tornando a preferire il lavoro a termine. E questi sono tutti segnali coerenti con una crescita economica che congiunturalmente è meno robusta rispetto a quello che abbiamo visto. E probabilmente, professore, anche a un discreto clima di incertezza, tanto politico da una parte proprio sugli esiti del referendum, quanto più generale, no? Un'Unione Europea che stenta a tirarsi fuori dalla crisi, eccetera, eccetera. E certo, gli imprenditori faticano un po', no? Sì, non c'è dubbio. Infatti l'incertezza domina non solo agli imprenditori, ma anche nei consumatori. Abbiamo visto che nel secondo trimestre ha ricominciato a crescere la propensione al risparmio, quindi non appena il reddito è ripartito un po', la prudenza sta frenando appunto i consumi. Quindi è certamente l'incertezza e il cambiamento negli gravi, nei contributivi, che sono molto meno ricchi del passato. E poi non dimentichiamo mai che una parte delle imprese, pur con tutti gli incentivi, con la modifica dell'articolo 18 e così via, ha preferito andare sui voucher. Quindi c'è un pezzo dell'economia italiana che si rifiuta fondamentalmente di crescere, ma a fronte dell'eliminazione di alcuni contratti di lavoro cosiddetti flessibili è andato verso una precarizzazione ancora più forte. Insomma, il solito dualismo che purtroppo caratterizza spesso la nostra economia. Quanto lo vede, professore, quanto lo vede tutto questo legato appunto all'incertezza e a un'economia che stenta, a come dire, un paese per certi versi, mi si consente l'espressione che verrà giudicata renziana, ma non lo è, un po' nella palude per certi versi, e quanto questo è collegato a una tendenza tipica di questo paese, secondo lei? Purtroppo è una tendenza tipica di questo paese che neanche la politica economica, ancorché molto favorevole appunto all'impresa, anche in termini di sgravi fiscali e così via, ma non solo, ma anche di sgravi per investimenti, non riesce a cambiare marcia. Una parte del paese, della produzione, l'ha fatto, ma l'ha fatto da anni, investendo in innovazione, andando sui mercati internazionali, e sono quelle imprese che hanno aumentato l'occupazione, la produttività, la ricerca e sviluppo, e hanno anche aumentato i profitti. Ma un altro pezzo di paese non riesce letteralmente a uscire da quella palude, che però appunto non è solo politica ma è anche economica, confermata tra l'altro dal rapporto sull'evasione fiscale che la commissione che io presiedo presso il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato qualche settimana fa, che indica ancora 110 miliardi di evasione, anzi un'evasione in crescita tra il 2013 e il 2014. Quindi questo dualismo continuiamo a portarcelo dietro, e questo dualismo è anche settoriale. C'è l'industria che certamente ha avuto un'accelerazione in termini di innovazione, anche di competizione internazionale, e un settore terziario più protetto che invece appunto non riesce a fare il salto. Tornando invece alla questione dell'età, come lei... Mi sembra indicare lei, professore, da questo punto di vista una carenza di liberalizzazione. In effetti, come dire, le leggi relative sono al palo da un po' di tempo. Sì, probabilmente anche la legge sulla concorrenza, che sta in Parlamento da mesi e mesi, non certo per l'esistenza di due camere, ma per la non coesione delle forze politiche. Anche la legge appunto 2016 della concorrenza probabilmente cadrà a causa della crisi politica. Quindi insomma, gli elementi sono molti, ed è evidente che adesso non vorrei essere preso appunto per un tacceriano, è evidente che la crisi che abbiamo subito, durissima, ha consentito a varie imprese, diciamo così, marginali, inefficienti, di sopravvivere proprio grazie appunto a una maggiore evasione, all'uso di voucher, cioè questo un pezzo di sistema appunto continua ha per così dire vivacchiato, se mi consente l'espressione. Questo ha ridotto la crisi, l'impatto della crisi, ma rispetto ad altri paesi non ha liberato quegli spazi magari per nuove imprese gestite da giovani e così via, la creazione distruttiva schumpeteriana di cui normalmente si parla. La fermo un attimo, abbiamo il traffico e poi la vorrei appunto sul tema delle classi di età e del perché questa crescita di occupati si concentra negli ultra cinquantenni. Ci sono anche delle motivazioni tecniche, per così dire, però insomma il segnale è molto forte. A tra poco. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo. Intanto io vi aggiorno sul fatto che Milano ha chiuso sui massimi, più 2,10% il FTSE MIB, più 2,06% il FTSE OSHARE, con banche superstar, come si dice in questi casi. Monte dei Paschi più 10,7%, Popolare Emilia Romagna più 10,41%, Unicredit più 9,42%, ma sulle banche arriviamo tra un attimo. Intanto col professor Giovannini per capire appunto, come dicevamo, questa occupazione che cresce fortemente per gli over 50. Che cosa vuol dire e da cosa dipende, professore? Ma intanto cresce solo per gli over 50. Questi dati sul terzo trimestre del 2015 rispetto al terzo trimestre, del 2016 rispetto al terzo trimestre del 2015 ci dice appunto che ci sono stati 344.000 occupati in più con 50 anni e oltre. Sono diminuiti invece di 29.000 unità la fascia 15-34 ed è diminuita di 76.000 unità la fascia 35-49. Questo ha due motivazioni fondamentali. La prima è legata all'allungamento della vita lavorativa e soprattutto al fatto che una serie di meccanismi di scivolo verso un pensionamento anticipato non ci sono più. Questo, per un fatto puramente demografico, fa sì che, come dire, il serbatoio si cresca a causa di quelli che da 49 anni passano a 50 anni a causa del passare del tempo, e non si svuoti visto che appunto si lavora più tempo. Ma questo è un processo appunto atteso, sì, che però non è stato compensato da una ripresa economica sufficientemente robusta per le nuove missioni. Ricordiamo anche che, per esempio, nella pubblica amministrazione, che è un bacino importante di circa 3 milioni e passa di lavoratori, in Italia abbiamo l'età media più alta di tutti i paesi OCSE. Quindi anche quel settore, bloccato in termini di nuove acquisizioni di turnover, ha inciso su queste tendenze. Ma è proprio soprattutto nell'industria e nel terziario che le nuove emissioni, che pure ci sono state, non hanno compensato, diciamo così, le uscite. Ricordiamo anche che, come abbiamo detto prima, la ricomposizione dell'occupazione cosiddetta precaria è andata in parte effettivamente a contratti cosiddetti a tutele crescenti, quindi le persone vengono classificate tra i lavoratori dipendenti, e una parte finiscono appunto tra i voucher, che sono ancora più precari. Ecco, quando poi si fa la somma complessiva si vede che le immissioni appunto non sono state sufficienti a eliminare, a compensare le uscite. Allora, questo è il punto, io la ringrazio, grazie al professor Giovannini per essere stato con noi, per averci aiutato a chiarire questi dati, che appunto sono molto interessanti. Ricordo tra le altre cose, a proposito di immissioni sul mercato del lavoro, che mi veniva in mente che manca tutta la parte, poi a tutti gli effetti non abbiamo il tempo di parlarne adesso, però manca tutta la parte del Jobs Act che dovrebbe varare delle politiche attive per il lavoro. Quella parte è ancora sostanzialmente inattuata dopo un tentativo di risistemazione. È il momento della borsa. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Allora, come si diceva, chiusura sui massimi, ti faccio fare un commento iniziale breve e poi ci ritroviamo dopo GR24 per il commento sui singoli titoli. Più 2,10% il FTSE MIB, più 2,06% il FTSE All Share, poco da dire, molte banche, no? Sì, oggi è stata una giornata ancora caratterizzata dal settore bancario, lo abbiamo visto a Milano ma lo abbiamo visto anche nel resto d'Europa, dove i titoli migliori sono stati proprio quelli degli istituti di credito. Ancora una super Monte Paschi, più 10,79% nel giorno del CDA, chiamato a fare il punto sull'operazione di aumento di capitale. È andata bene anche BPER, che ha guadagnato il 10,41%, e fra gli istituti che sono stati sostanzialmente promossi da Fitch ieri. Insomma, una giornata con tanti guadagni pesanti e poche ombre, fra queste appunto Luxottica e A2A, che hanno ceduto comunque attorno all'1%. Questo appunto il quadro complessivo, poi con te faremo il punto anche sugli altri titoli, poi andremo più in generale sull'andamento del mercato italiano dopo il referendum, parleremo anche dei titoli di Stato e soprattutto parleremo di Monte dei Paschi, ma lo facciamo dopo il GR. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamo la nostra. in collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Waferlago. Waferlago, dolci emozioni italiane. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, care ascoltatrici e cari ascoltatori, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, come sempre. Stiamo concludendo il capitolo sulle borse, qualche ascoltatore mi fa giustamente notare che non ho dato gli indici europei. Come si diceva, Milano più 2,10% il FTSE MIB, più 2,06% il FTSE All Share, Parigi che chiude con un guadagno dell'1,36%, Francoforte dell'1,96%, Londra dell'1,81%. L'America positiva anche oggi, Standard & Poor's 500 che guadagna lo 0,3% e il Dow Jones lo 0,41%. Con Guido Maurino, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, di nuovo buonasera Guido. Beh, abbiamo dato un quadro generale, abbiamo detto che tutto è stato trainato dalle banche, tra l'altro sulle banche torneremo tra un attimo, così come torneremo a parlare dell'andamento dei mercati più in generale post referendum. Ti porterei sugli altri titoli a questo punto, a partire da Telecom Italia. Sì, per quello che riguarda la Telecom Italia ha chiuso in buon rialzo, ha guadagnato il 5,08%. Ieri è emerso che il suo primo azionista, la francese Vivendi, ha effettuato nuovi acquisti sul titolo e si è riportato sostanzialmente al 24%. Questo cosa vuol dire? Da un lato è stato interpretato dai mercati come un segnale di fiducia del primo azionista, ma anche come foriero di possibili nuovi acquisti, dal momento che la soglia di OPA scatta al 25%, quindi può darsi che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, Vivendi possa arrotondare ulteriormente la sua quota. Su queste prospettive, insomma, il titolo oggi ha guadagnato bene. Questo per quanto riguarda Telecom. Ci dicevi poco fa, complessivamente debole il lusso, in particolare Luxottica cede l'1,39% oggi. Sì, per quello che riguarda Luxottica, anche oggi abbiamo avuto una seduta negativa con un po' di difficoltà. C'erano alcuni report che sono circolati negli ultimi giorni che sottolineano come a questi prezzi il titolo sia molto più caro rispetto ai competitor, prezza 26 volte gli utili attesi per il 2017, per cui insomma c'è un po' di prudenza sul potenziale incremento delle quotazioni del titolo. L'abbiamo visto anche oggi in una giornata comunque non brillantissima per tutto il settore del lusso, che in qualche modo paga il fatto che l'euro sia tornato leggermente anche a rafforzarsi sul dollaro, e questo per i titoli del comparto del lusso spesso è una notizia negativa. E bene anche gli editoriali oggi, no? Oggi anche bene gli editoriali. È passata la legge di bilancio, nella legge di bilancio c'erano provvedimenti che riguardano anche l'editoria, il sostegno all'editoria. Oggi l'abbiamo visto un po' su tutti i titoli, anche il Sole 24 Ore ha guadagnato il 14,66%, Classe Editori l'11,04%. E questo per quanto riguarda il quadro complessivo. Come si diceva, altri titoli abbiamo a 2A negativa per l'1,35%, giù Campari dell'1,15%, Prismian dell'1%, ricordate dello 0,27%, Yux Net-a-Porter dello 0,23%, come si diceva, conferma dell'andamento negativo oggi del settore del lusso. ST Microelectronics giù dello 0,10%, Moncler dello 0,06%, tutti gli altri titoli sono in positivo a partire proprio dalle banche, ed è sulle banche che andiamo, ringraziando Guido Maurino di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Banche e non solamente banche. Ci sono cose che si intrecciano in queste ore. La riflessione sull'andamento dei mercati dopo il referendum, quello che succederà a Monte dei Paschi dopo il referendum. E dunque saluto Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera a voi. E Moria Longo del Sole 24 Ore, anche lui, che ci aiuterà un po' più sul lato mercati. Moria, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Marco, inizierei naturalmente dal Monte dei Paschi e CDA, Consiglio di Amministrazione, forse ancora in corso, a quanto sappiamo ancora in corso. In realtà il tema qua inizia ad essere, già ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, però si fa sempre più concreto il tema dell'intervento dello Stato. Questa mattina, lo ricordiamo agli ascoltatori, sono diffuse le indiscrezioni. Secondo il quotidiano La Stampa, il Tesoro era pronto a chiedere 15 miliardi di euro al Fondo Salva Stati, notizia smentita tanto dal Tesoro quanto dal Fondo Salva Stati. Detto ciò, l'intervento pubblico, Marco, sembra inevitabile a questo punto o no? Sì, sembra abbastanza inevitabile, però serve un governo per attuare un intervento pubblico. E quindi, visto che al momento un governo nel pieno dei poteri non c'è, al Monte serve del tempo. Quindi qualche giorno, non dimentichiamo che il piano A, quindi quello concordato con la BCE, prevedeva in queste ore di lanciare un aumento sul mercato. Non ci sono le condizioni perché sono mancati gli investitori di riferimento, si parlava del Qatar con il miliardo di euro che avrebbe un po' gettato le basi per il nuovo aumento da 5 miliardi, quindi il piano A è congelato. Ieri è andato il amministratore delegato del Monte in BCE a concordare il congelamento della situazione, quindi un ammorbidimento della scadenza imposta dalla BCE al 31 dicembre per la ricapitalizzazione. Oggi in CDA dovrebbero proprio in questi minuti decidere di congelare la situazione, quindi in sostanza tenere in piedi il piano A, quindi con la possibile garanzia, che è più no che sì, ma in teoria diciamo possibile, delle banche d'affari, e quindi continuare a monitorare il mercato. 10% di possibilità che il piano A possa andare in porto, però nel frattempo questi giorni, si parla di 10-15 giorni, saranno sufficienti a vedere un nuovo governo e quindi vedere un soggetto in grado di determinare come lo Stato potrà intervenire, anche perché le modalità possibili sono più d'una e sono molto diverse una dall'altra. Ecco, io proprio su questo ti vorrei, adesso sentiamo il traffico, il vantaggio del Monte dei Paschi è che almeno in queste ore il mercato lo sta sostenendo, insomma, e quindi questo fiato sembra avercelo almeno per il momento il Monte dei Paschi, naturalmente salvo drammi delle prossime ore, insomma, e smentite a queste mie parole nelle prossime ore da parte del mercato. Però proprio su questo punto, su quali possano essere le modalità, soprattutto alla luce di quello che ci può consentire di fare l'Europa per mettere come dire, soldi pubblici nel Monte dei Paschi, di questo vorrei parlare con te, ma dopo il traffico. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Focus Economia. Vedo una serie di ascoltatori imbestialiti sull'ipotesi di intervento dello Stato nel Monte dei Paschi. Alcuni ci dicono va fatta fallire, non bisogna metterci i soldi dei contribuenti che pagano gli errori e la cattiva gestione dei privati. È un punto di vista condivisibile, dall'altra sì, ma dall'altra parte c'è un altro punto di vista condivisibile. Ci sono tutti quelli che rischiano di essere coinvolti dalla normativa del bail-in, quindi o si protesta per il bail-in o si protesta per il salvataggio dello Stato, però tanto qualche protesta da qualche parte ci sarà. Di certo, Monte dei Paschi, Marco Ferrando, e poi andiamo su come si potrebbe concretizzare questo salvataggio, è una banca importante a livello di sistema, cioè decidere di farla fallire non è proprio una cosa immediata, e non solo a livello italiano ma anche a livello europeo. Sì, Monte Paschi è la terza banca italiana per attivi, pensiamo a quello che è accaduto poco più di un anno fa con il mezzo bail-in delle quattro banche, di cui alcune non avevamo mai sentito parlare, penso alla Cassa di Risparmio di Chieti o di Ferrara. È passato un anno per l'azzeramento di 800 milioni di bond subordinati, di cui la metà soltanto nelle mani dei risparmiatori. Giustamente, essendo stata evidentemente una mossa a sorpresa, siamo ancora qui a fare polemiche e a gestire un rimborso molto complicato. Quindi se accadesse qualcosa di analogo al monte dovremmo solo il rimborso, scusami Marco, ma anche la coda di tutto questo, cioè il fatto che tutto questo ha messo a nudo un problema generale del sistema bancario, in particolare quello delle sofferenze, ma soprattutto una serie di altri casi di gestione non proprio pulita o quantomeno opaca degli istituti di credito, soprattutto locali, che ci portiamo appresso ancora oggi. Assolutamente, perché alla fine le malattie sono diverse ma fanno parte dello stesso tipo, perché evidentemente dietro queste situazioni c'è da un lato la mala gestione delle banche, ma dall'altro anche un cattivo utilizzo degli strumenti di risparmio, perché evidentemente paghiamo un'ignoranza di fondo sui rischi che si portano dietro alcuni titoli e quindi su quello che può accadere nel caso in cui i rischi si concretizzino. Scusami solo un attimo, su questo punto credo che Moria Longo volesse dire una cosa. Sì, no, volevo semplicemente ricordare, è vero che lo Stato, i soldi dei contribuenti per riparare danni fatti da privati è una bestemmia. Detto questo, è anche vero che una banca così grossa, quando fallisce, rischia di creare una crisi di sfiducia tale su anche altre banche, perché tante altre banche sono messe male. Ricordiamoci cosa è successo con Lehman Brothers in un altro contesto, in un altro mondo, ma un fallimento di una banca grossa crea una crisi di sfiducia tale, con conseguenze panico, fuga di depositi e così via. Si creerebbe un effetto valanga che rischia di mettere in crisi l'intero sistema bancario. Allora, il problema qual è? Che l'Italia è un paese che dipende purtroppo totalmente dalle banche. Siamo un paese di piccolissime imprese che hanno come unica fonte di finanziamento il sistema bancario. Se il sistema bancario viene meno o comunque si ha una crisi sistemica, si crea una crisi dell'economia intera. Allora, il salvataggio di una banca così grossa non è semplicemente il salvataggio di una banca o dei banchieri, anzi i banchieri dovrebbero pagare per quello che hanno combinato. Il problema è salvare, evitare un'eventuale possibile crisi, speriamo che non accada, ma crisi sistemica che creerebbe conseguenze economiche molto pesanti sul paese. E molto più gravi, evidentemente. E questa è la motivazione, per rispondere anche ad un ascoltatore che ci dice: se fallisce la mia azienda, lo Stato non la salva. È esattamente questo, a parte dipende dalla dimensione dell'azienda, ma qua entriamo tutto in tutt'altro ambito. Marco Ferrando, come si potrebbe concretizzare questo intervento dello Stato? La premessa è quella è di carattere tecnico, nel senso che dal 1 gennaio di quest'anno sono in vigore le norme sul bail-in, che quindi prevedono che il salvataggio di una banca sia a carico della banca stessa. Cosa vuol dire? Il patrimonio netto finché c'è, e poi gli azionisti, gli obbligazionisti, via dicendo. Questo quindi, in teoria, la strada maestra sarebbe azzeramento delle azioni e azzeramento di alcuni titoli via via, ovviamente partendo dai più rischiosi. Se non che, in presenza di alcune condizioni particolari, la stessa norma prevede che lo Stato possa effettuare una ricapitalizzazione precauzionale. Nel caso in cui la banca sia stata bocciata da una prova di stress delle autorità europee, e il Monte Paschi è stato bocciato, e nel caso in cui la crisi possa avere ricadute sistemiche, e in questo caso, visto il discorso faceva prima, le ricadute potenzialmente ci sono. A questo punto quindi lo Stato potrebbe intervenire previo un avallo che però dovrebbe essere tecnico, non politico, della Commissione Europea, e questo è un passaggio importante, perché sennò vorrebbe dire aprire un negoziato potenzialmente lunghissimo. Invece si dovrebbe riuscire a evitare questo negoziato, e quindi lo Stato potrebbe intervenire. Come? Ieri, stando alle voci che venivano, come dire, che emergevano dal Tesoro, posto che il Tesoro anche lì evidentemente le cose, insomma, manca un ministro che potrebbe forse diventare Presidente del Consiglio, vedremo, però anche questo potrebbe essere un punto non irrilevante. In ogni caso, ieri l'ipotesi sembrava più gettonata, era un acquisto da parte dello Stato delle obbligazioni in mano al retail. E parliamo ad esempio di 2 miliardi di titoli subordinati venduti nel 2008 ai tempi dell'acquisizione di Antonveneta. In questo caso lo Stato cosa farebbe? Vedrebbe crescere la sua quota, che oggi è del 4%, in proporzione con i 2 miliardi che quindi acquisterebbe. Altra ipotesi è un'immissione diretta, quindi un aumento in parte riservato a favore dello Stato. Un'altra ipotesi è acquisto delle obbligazioni in mano ai privati e conversione obbligatoria delle obbligazioni in mano agli investitori istituzionali, che è un altro tema delicato, perché gli investitori istituzionali sono anche quelli che hanno in mano i BTP, per dire, il Portogallo ne sa qualcosa, ha fatto qualcosa di simile un anno fa, e da allora i rendimenti dei titoli portoghesi non sono mai tornati ai livelli di prima, perché gli investitori sono molto arrabbiati per la disparità di trattamento. Quindi diciamo, le possibilità sono tante. Serve un governo. serve un governo. Serve un governo. E quindi serve un po' di giorni. Servono un po' di giorni. Allora io ti ringrazio. Grazie a Marco Ferrando per averci aiutato a fare questo punto. E con Moria Longo, negli ultimi minuti di questa trasmissione, ci occupiamo più strettamente adesso di quello che è successo sul mercato dopo il referendum. Perché le attese, qualche attesa, era per un netto calo delle borse, per un allargamento dello spread, della differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, di un innalzamento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani. Che cosa è successo invece, Moria? È successa la stessa cosa che è accaduta dopo Brexit, lì ci sono voluti un po' di giorni, dopo l'elezione di Trump, lì ci sono volute poche ore, e dopo questo referendum è successa la stessa cosa. Cioè, il mercato prima di questi eventi era molto ribassista. Allora, io bisogna distinguere gli investitori. Ci sono investitori di lungo periodo, i fondi pensione, le assicurazioni, i fondi comuni di investimento. Questi non si muovono, non speculano su elezioni. Questi stanno tranquilli, nel senso non si mettono a giocare al ribasso o al rialzo a seconda dei sondaggi. C'è poi una seconda categoria degli investitori che sono quelli che in questi giorni hanno mosso i mercati, tipicamente gli hedge fund, i fondi più speculativi, quelli che giocano, sfruttano le opportunità al ribasso sulle borse. Ebbene, questi soggetti erano molto molto ribassisti sulle banche italiane e sui titoli di Stato italiani. Non esistono dati ufficiali, perché giocare al ribasso significa usare derivati, significa usare molte tecniche finanziarie che sono difficili da tracciare e quindi da avere una complessità del fenomeno. Ma tutti gli operatori del mercato dicono che gli hedge fund erano molto addirittura con livelli quasi ai massimi storici di scommesse al ribasso sulle banche italiane e sui titoli di Stato. Questo prima del referendum, perché si diceva che vinceva il no. Già man mano che si avvicinava al referendum, questi fondi, siccome erano molto sbilanciati su una scommessa ribassista, hanno iniziato a ricoprirsi, cioè a ricomprare azioni, per evitare di arrivare il giorno del referendum così sbilanciati, perché se avesse vinto il sì perdevano un sacco di soldi. Ed è per questo che già la settimana precedente al referendum le borse, Piazza Affari è rimbalzata, proprio perché questi fondi, che erano iper speculativi al ribasso prima, hanno lievemente ridotto le loro posizioni ribassiste. Dopo il referendum, la prima reazione immediata nella nota agli exit poll è stato l'euro che è sceso, però è durata talmente, anche Piazza Affari appena aperto ha perso quasi il 2% nella prima mezz'ora. Dopodiché cosa è successo? Questi fondi, memori dell'esperienza dopo Trump e dopo Brexit, hanno iniziato a ricoprirsi, cioè a ricomprare azioni, proprio perché non volevano trovarsi esposti e speculativamente al ribasso nel momento in cui la borsa sarebbe rimbalzata. E proprio il fatto che questi fondi iniziano a ricoprirsi, cioè a comprare azioni, fanno proprio loro rimbalzare la borsa. E quindi c'è stato un fuggi-fuggi, una corsa a ricomprare azioni proprio per chiudere queste posizioni ribassiste, che ha creato ieri un rialzo fortissimo di Piazza Affari, quasi fuori luogo, quasi incomprensibile, proprio per questa speculazione che veniva chiusa. Abbiamo in 10 secondi, Moria, a tuo giudizio, è quello che abbiamo visto anche oggi? Oggi ci può essere un fenomeno successivo, perché oggi può ancora esserci questo fenomeno delle ricoperture, ma gli operatori dicono che stanno ritornando a investire un po' in Italia anche gli investitori veri, quelli di lungo periodo, cioè stanno tornando quelli che prima erano un po' alla finestra, perché un po' si parla di salvataggio Montepaschi, un po' perché domani c'è la BCE che potrebbe allungare gli stimoli monetari, un po' perché si è capito che questo referendum non era la fine del mondo, ma il mondo continuerà. E quindi chi anche prima era un po' a ritroso, comunque un po' ritirato, piano piano sta tornando. Dalle sale operative testimoniano che iniziano a vedersi investitori veri, quelli che mettono i soldi nel lungo periodo e fanno investimenti oculati, iniziano a rimetterci i soldi. Grazie dunque a Moria Longo e a Marco Ferrando, entrambi del Sole 24 Ore. Le loro cronache le trovate tutti i giorni sul quotidiano e ovviamente anche sul sito internet del Sole 24 Ore, oltre che qua da noi. Gli altri ringraziamenti: Barbara Bianchi e Mauro De Corno in assistenza in redazione, Roberta Frisani in regia. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna domani alle 17, come sempre con me. Noi comunque ci risentiamo domani alle 13, come sempre, anche se è festa, con effetto giorno. Radio 24. Libera la voglia di fare.